Comunque, Rialzati Bologna è del... Rialzati Bologna del 2011, periodo della giunta del Bono. Cos'era? Andrea, tu chi è che si ricorda quando famoso periodo del Bono? Del Bono? Può essere. Può essere. Sai che, comunque... qui le cose ci passano, esatto. No? E sembra ieri, no? Veramente. E poi sono passati casomai 15 anni. 12, però. 12. In questo caso. E comunque sono passati 12 anni. Esatto. E questo brano è attualissimo. Esatto. E consigliamo agli ascoltatori, visto che adesso vi presentiamo un lavoro musicale barra letterario, e quindi le parole, che sono quasi sempre molto importanti, in questo caso lo sono molto. Quindi ascoltate bene non solo la musica prodotta, realizzata qui dal nostro You. Insieme ovviamente a Tony Farinelli e Andrea Insulla, che non sono nomi da poco, esatto. Voglio dire, quindi le parole naturalmente sono di Enrico Brizzi. Il nuovo lavoro uscito venerdì scorso si chiama Bastogne, e Bastogne è il secondo libro, non il sequel, ma il secondo libro che scrisse dopo Jack Frusciante, che insomma non c'è che bisogno di, esatto, tutti, non c'è bisogno che raccontiamo l'enorme successo che ha avuto. Fece questo libro, diciamo così, in controtendenza anche rispetto alle indicazioni che aveva avuto da editori, adesso lui la saprebbe raccontare meglio, ma molto in sintesi è come il gruppo che ha fatto il disco del secolo e poi ne fa un altro completamente da un'altra parte. Dai, visto che siamo così, gli do un assist di quelli tre mesi. È un po' come Nirvana fatto da Butch Vig e poi sono andati da Steve Albini a fare In Utero. Cioè, nel senso che Steve Albini, per chi conosce tutta una serie di cose, è un produttore molto crudo, rough, dove Andrea Insulla, tra l'altro, batterista anche degli Alex, ha lavorato. Ha fatto un disco con gli Alex, con Steve Albini. Questo giusto perché il collegamento non era casuale. Non era casuale. Ok, comunque, i gradi di separazione non sono lontani. No, infatti al massimo sono 7, quindi esatto. Ci arriviamo tutti. Saranno 5 qua, ecco. Allora, questo libro è del 96. L'album è uscito però venerdì scorso. Esatto. Quindi, quando è nata l'idea di mettere in musica questo libro? Cioè, Bastogne, il disco Bastogne. Esatto. È nata esattamente l'anno dopo la pandemia. Io con la pandemia ho un anno che mi balla sempre. Quindi credo 2020 o 2021. Okay. Forse 2021. Beh, è iniziata nel 2020. Nel 2020, poi c'è stato il lockdown. Allora 2021. Ho okay. 2021. No, veramente ho un anno che mi balla. No, non mi ricordo mai se è quello o quell'altro. Mi balla un anno. Mi balla un anno. Credo che per molti sia così, pensando alla pandemia, un anno. Registrato alla fine del 2021, è stato in congelato per tutto il 2022, lavorato adesso, uscito nel 2023. E quindi le parole che ascoltiamo in questo album le ritroviamo anche nel libro, no? Sono tratti o è ispirato? No. Allora, il libro e il disco sono 7 brani più una ghost, perché noi abbiamo fatto il sorpresone, che nel disco non è segnato, ma sono 8 i brani. Comunque, diciamo, i 7 estratti sono esattamente Bastogne, che Enrico ha riassunto o ha messo nella gabbia, chiamiamola così, della forma canzone. Chiaramente, quindi sono il libro. Sono il libro, cioè dall'inizio alla fine. Alla fine. Così, in breve, di che cosa parla questo libro? Allora, sono un gruppo di post-adolescenti, come potevamo essere noi nella Bologna degli anni Ottanta, però questo qui è ambientato a Bastogne, dove c'è comunque una zona collinare. Diciamo che tutta la descrizione del luogo ricorda Bologna. Ok. Poi diciamo, questa Bastogne, questo paese in Francia, Bastogne, credo sia, Andrea, così la pronuncia. Ah, non lo so, io dico Bastogne con lei finale. Dico anche Cabernet. Quindi Cabernet. Sarà Bastogne. Sarà. Sono questo gruppo di post adolescenti. Scrivetecelo al 333-180-9494. Per chi ne sapesse più di me. Io il libro l'ho letto tanti anni fa, l'ho riletto in occasione di quando ci siamo messi a rilavorare. Comunque sono questo gruppo turbolento di ragazzacci, dove c'è tanta musica che gira intorno, anche nel disco. Anche nel libro. E nel libro, esatto. Anche nel libro. Devi separare. Guarda, è un lapsus freudiano, cioè si sovrappongono, certo. Ma in maniera positiva, perché non riesco certo. più a a distinguere. Parla dei Peel, parla dei Divo. Beh, del resto il primo libro è Jack Frusciante, uscito dal gruppo, quindi diciamo che... Qui abbiamo anche il nostro Diegone d'Agata, Bombay, Didi Bombay. È vero, è vero. Ma in questo disco anche ci sono ospiti, è vero? Sì, tanti. Adesso dunque, a memoria... Qualcuno. Allora, io mi ricordo Steno. Steno, esatto. Okay. Max Collini. Max Collini. Bebo dello Stato Sociale. Bebo dello Stato Sociale. Federico Poggi Pollini. Beh, insomma, sì, abbiamo un bel panorama, Chi diciamo... ho dimenticato? Ce n'erano di più. Vabbè, comunque... Viene in mente. Hai ancora tempo per... Esatto. Per dirlo. Guarda su Wikipedia. Esatto. Una domanda e poi ascoltiamo subito un estratto dal disco. È stato difficile, già dall'inizio intendo, lavorare per te come musicista con uno scrittore? Allora, è una... Diciamo così, è un'idea, è un modus operandi che mi è stato aperto... Mi è stato da Cesare Ferioli quando lavoravamo con Gilberto Centi, okay, che fu il primo a introdurmi in questa idea di lavorare, di fare reading con dei musicisti, ma non una base, so, con un sitar e due congas e uno che declama qualcosa, ma suonare proprio del rock and roll con un declamatore di testi, di poemi, di liriche. E quindi da lì l'idea di suonare come se fossero i Ramones, ecco, che suonano con uno che declama, mi si era già instillata nella testa. Quindi no, non particolarmente, perché Enrico ha accettato subito e ha cercato subito la forma canzone post-punk, insomma, chiamiamola rock and roll per scriverla. Dai, dentro un mondo. E anche stavolta, avendo un trio in cui lavoriamo io, Tony e Andrea in maniera spedita, veloce, e abbiamo un ottimo interplay, Enrico ormai, insomma, mai siamo compagni di band, e quindi insomma, non è stato difficile. Dominare paranoie, abbiamo ascoltato Aurora da Bastogne, il nuovo lavoro di Brizzi e Iuguerra, uscito venerdì scorso, che giusto? Vogliamo ricordare, ma questo è solamente una coincidenza, però nei colori, che è la data d'uscita di Nevermind the Bollocks, dove il rosa shocking e il giallo sono la base della copertina di Jamie Reid. Insomma, il gran collegamento con i Nirvana portando. L'abbiamo collegato Nirvana e Pistols. No, Nevermind the Bollocks dei Pistols. Dei Pistols. Pistols. No, Nevermind, scusa. Ti faccio così delle citazioni da niente. Nevermind the Bollocks. E vedo che anche noi quattro. Il merchandising. Sì. È tutto giocato su questi giallo e rosa, su questi colori. Poi uno potrà vedere nella copertina noi quattro in una trincea della Somme con helmet, con Stein Helm tedesco in testa e maschera antigas. Esatto. Allora ne mancava uno nei collaboratori, sì, cioè nei ospiti, nei featuring, come si dice. Allora è Van Buteo, che sarebbe il chitarrista del gruppo, che aveva fatto Enrico nel suo primo reading, insomma, sono dei fiorentini, mi perdonino se non ricordo perfettamente il nome, però okay, comunque li abbiamo detti tutti, esatto, insomma, i featuring di questo album. Esatto. È uscito, si trova regolarmente? Allora, si trova. Allora, è uscito per Gust Record e altre etichette legate. Sono tutte etichette che fanno punk di solito. Nei negozi non ho informazioni dove si può trovare. Si può però ordinare online andando sul sito dell'etichetta, andando sulla pagina Enrico Brizzi e Iuguerra su Facebook o su Instagram, o su tutti i social, diciamo così, di maggior successo. Esatto. e trovare il link per comprare il CD. Anche Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, esatto, ecco, stavo proprio cercando Toulouse-Lautrec. Insomma, bella nota come. Ma tu la conosci bene? Cioè, si conosce. Ah, io non la conoscevo. No, dai, mo. Allora. Vedi che venire qua impari delle cose. Ti possono servire. Ma io sto un po' di anni che vivo un po' fuori dal mondo, nel senso, quindi. Proprio tecnicamente, perché vive in montagna. Esatto. E quindi proprio, capito. Va bene. Esatto. Ma a parte queste note personali, io vi ho visti live la sera che avete presentato il disco al Locomotive venerdì scorso. Gran concerto, veramente. Grazie. Bella performance, non lo dico perché sei qua, perché sennò sarei stata zitta. No, lei è anche invitata in radio, quindi esatto. Questa è la prova provata. Questa è la prova. roba provata. Avete altre date? Allora, abbiamo altre poche date, perché gli impegni di tutti, insomma, non abbiamo però il 15 dicembre a Como, non so dove, e il 22... è un locale che si chiama così. Esatto. E il 22 dicembre in un omonimo locale, non so dove, a Bolzano. Ah. Poi avremo qualche data a gennaio. E per motivi di marketing non posso anticipare che ci sarà uno stop, ma perché torneremo con una, diciamo così, con un'offerta ancora più ricca e potente. Addirittura. Sì, sì. E non ci puoi dire niente, una cosa piccola. Allora, tutto. Allora, no, tutto. Sarà amplificata. Sarà amplificata. Allora, diciamo così, abbiamo buttato sui presupposti per fare l'album di Jack Frusciante. Ma guarda, te lo volevo chiedere io. Allora, però, ecco, adesso, dopo questo, siccome mi ascolta in streaming, prenderò dei nomi, no, ma non importa. Ma avrei voluto dirlo io, quindi esatto, facciamo finta. Esatto. Perché è un anniversario di, esatto, Jack Frusciante l'anno prossimo. Esattamente. E quindi basta fare un 2+2, uno dice ha fatto Bastogne, c'è l'anniversario. Ma Bastogne tornerà fuori perché Bastogne, parole di Enrico Brizzi, non per una mia deduzione così logica, fa parte del mondo Jack Frusciante, anche certo, se non è il sequel, però fa parte di quel mood che lui ha vissuto in quel periodo, quindi rilanciamo tutto questo più avanti. E esatto, noi saremo qui a testimoniare assolutamente. Anche perché bisogna dire che è tutto molto bolognese, chiaramente. Sì, sì. Anche se ambientato in Francia, come dicevi tu, esatto, i riferimenti sono molto. Allora, è una mia deduzione, non ho neanche mai chiesto a Enrico se è Bologna, Bastogne, però occhio mi sembra così. Hai dato delle descrizioni che a me sembra. O è Cuneo, dove ci sono i portici. Perché le Alpi Marittime finire la frase, perché dire che è molto bolognese potrebbe sembrare riduttivo, perché sì, Bologna per noi è stato il centro del mondo, ma non è che lo è, voglio dire, ma è un libro, come poi ha dimostrato l'enorme successo internazionale di Jack Frusciante, che si adatta e che può essere fatto proprio da chiunque, insomma. È un argomento che mi interessa, perché la cosa che condividiamo io e lui molto è la sprovincializzazione di Bologna. Esattamente. Perché era lì, insomma, che voleva arrivare. No, ma infatti, cioè, insomma, voglio dire, sai, questa storia del paesone, questa storia che sembra che sia sempre lì a mangiare dei tortellini. Adesso manda della gran mortadella, ma i turisti. Sì. Quella però, triste, però. Quella triste e quella, vabbè. Anche i tortellini tristi. Esatto. I puff, mi sa che mangiano. Sì. Che conosce la marca, sa di cosa parla. Costa un euro al chilo. Esatto, chissà come sono fatti bene. No, portiamo avanti questo discorso, dove invece Bologna la vediamo come una città che ha dato, voglio dire, dall'Attack Punk alla Casa Record, insomma, dall'Italia Record, è una città che in realtà non puoi scriverla dentro il provincialismo. In realtà è una città che a livello di fermenti artistici è molto internazionale, e noi la vediamo molto diversamente da chi la scrive, appunto, dal paesone. E quindi quindi era lì che voleva arrivare. Ma qui a parlare di geografia, però a volte facciamo delle figuracce. Ci scrive Mammo che Bastogne è, penso che si sia sbagliato a scrivere, ma perché ha scritto è in Belgio. È in Belgio, Belgio. In realtà è in Belgio, non è in Belgio. È vero. Forse è nel quel Belgio dove parlano francese. Però è Belgio Vallone. Non facciamo distinzioni. C'è stata una battaglia, no? A Bastogne. Sì. Qualcosa ricordo. Sì. Va bene. È vero, mamma ragione. Storia e geografia siamo un po' messi male, anche in quella recente a volte abbiamo delle lacune. Siamo messi malissimo sulla geografia. Siamo come gli americani che confondono Italia, Spagna, la pizza dove è nata, in Portogallo, quelle cose lì. Allora, io direi che è giunto il momento di ascoltare un altro brano da questo disco, che si chiama I Quattro di Piazza Nietzsche. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, che allora, dice? Esatto. Una citazione di Zucchero. Ho scelto questo brano perché parla di amici e cugini, e in questo album suonano i miei amici e suonano i nostri cugini, i cugini anche. Quindi Federico Poggi Pollini alla chitarra è ospite in questo brano, esatto, che ascoltiamo. Voce e solo. I Quattro di Piazza Nietzsche, che abbiamo ascoltato e che saranno in questo nuovo disco che si chiama Bastoni, che saranno, che per sono Gust già, Records, che è già uscito venerdì scorso. Esatto. Allora, prima di salutare, raccontiamo l'ultima particolarità di questo disco, perché lo dico io, poi tu lo dirai meglio, c'è un brano dedicato, anzi richiesto prima e poi dedicato al Bologna Football Club. Allora, è, diciamo così, è uno spin-off, cioè, non è proprio nell'album Bastonia, ma Enrico, in contatto col Bologna, col BFC, abbiamo fatto, in dialetto bolognese, abbiamo fatto questo brano che sembra che verrà trasmesso dagli speakers del Dall'Ara per la partita Bologna-Lazio. Comunque il Bologna proprio per quella? Sì, esattamente per quella. Poi io voglio dire, così mi sono stato informato e così credo che sarà. E niente. Ma non è nel disco il pezzo? No, non è nel disco, è un inedito questo. Quindi lo trovi online di solito? Come si intitola intanto? Sì, come si intitola? Oddio. Tirudeo del Bologna, esatto. Intanto non mi ricordavo, è arrivato il titolo. Un messaggio. Fantastico, quando uscì Bastogne nel 96 avevo poco più di 20 anni e lo imparai letteralmente a memoria. Oggi l'ascolto di questo disco mi ha fatto venire una nostalgia incredibile, bellissimo, bravi tutti, Marco. Marco, combatti la nostalgia comprando l'album. Esattamente. Così torni giovane, dici, quando ho comprato nel 2036 dirai, che nostalgia, quando comprai l'album Bastogne. Posponi la nostalgia. Grazie Marco per il messaggio. Va bene, quindi vi abbiamo dato anche questa chicca, insomma, esatto. Se per caso siete allo stadio e sentite questo brano, che all'inizio è un po' skinhead, secondo me. Come... No, la versione che hai sentito dal vivo è la versione skinhead. No, ecco. È quella che è in studio, che non riusciamo a trovare. Cioè, sarebbe il file, chissà adesso se durante la trasmissione riuscite a mandarlo. Vabbè. No, non è per niente. Ecco. Anzi, è molto più lunga, molto più articolata. E, ovviamente tutta in dialetto, e mentre c'è anche quella che avete fatto dal vivo sì, era una versione alla Lai da Bologna, un diciamo. Po' una gag, diciamo, dai. Era la versione Lai, versione OI l'abbiamo fatta, versione OI, va bene, esatto. Allora, noi ringraziamo you, Giuseppe Guerra, per essere stato qui con noi questa mezz'ora. E ringrazio Angela Zocco e il mio vecchio amico Andrea Gozza. E quindi alla prossima tua uscita discografica, qualunque essa sia, tu sarai qui con noi naturalmente. Io ti ringrazio. Ricordati di noi. Certo. Visto che non ti ricordavi neanche il nome dell'album. No, vabbè. Però di noi si ricorda. Sono memorie figurative. No, ma Andrea, è la memoria breve. Quando sei anziano, la memoria a breve termine è la prima che cancelli. Sì. Esatto, io mi ricordo tutte le interviste fatte in San Vitale quando tu avevi la TV. Come si chiamava la TV. Che facciamo famoso, ti ricordi? Terminale Rock. Combattemmo contro il produttore di zucchero. Di caffè che di zucchero. non stiamo a tirare fuori questa polemica. Basta. Dovremmo ricominciare. Perché dici delle cagate. Chiudiamo qua. Delle chicche pensavo che dici. Ti ringrazio. Chiudiamo qua. Sì. Ci siamo divertiti. Noi speriamo che vi siate divertiti anche voi.